Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, a tutti buona giornata, riprendiamo insieme un'altra settimana di lavoro. Allora, è passata la scadenza del saldo a metà dicembre, ma non possiamo certo dire di aver smesso di pensare e parlare di IMU. Se ne parla tutti i giorni, l'imposta municipale unica è tra i temi più caldi anche al centro della campagna elettorale, ma per alcuni proprietari di immobili il pensiero riguarda ancora gli ultimi adempimenti e le ultime scadenze. Voi direte: che cos'altro c'è da fare? Non abbiamo già versato il saldo a dicembre, appunto. No, ci sarebbero altre cosette da fare, ma questi nuovi adempimenti riguardano solo una determinata categoria di contribuenti. Dichiarazione, ravvedimento operoso ed eventualmente rimborsi, queste le pratiche che non sono ancora state del tutto archiviate. La dichiarazione IMU, per esempio, va fatta entro il 4 febbraio, ma è una procedura che spetta solo in alcuni casi, precisamente quando il comune non ha gli elementi necessari per conoscere la situazione del contribuente proprietario. E la scadenza del 4 febbraio, come scrive proprio il nostro Cristiano Dell'Oste, che intanto saluto. Cristiano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Nella sua introduzione alla guida, la tua IMU, la dichiarazione in edicola con il Sole 24 Ore di oggi, può essere l'occasione per fare il tagliando alla propria IMU 2012. Capire se si è pagato tutto, se si è pagato il giusto, come procedere con il ravvedimento oneroso per evitare sanzioni troppo alte se si è pagato in ritardo, ma anche come chiedere, nel caso in cui spettino, i dovuti rimborsi. Oggi con i nostri esperti vi spieghiamo allora come fare per capire se si deve presentare questa dichiarazione e come ci si deve comportare in tutte le altre situazioni. Insieme a Cristiano Dell'Oste ringrazio e saluto per essere qui con noi questa mattina Gianni Marchetti, direttore generale di AGEFIS, Associazione dei Geometri Fiscalisti. Dottor Marchetti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, per tutte le curiosità che gli ascoltatori si vogliono togliere, ovviamente le modalità per interagire con noi sono tante. La più nota 800 24 00 24, per intervenire in diretta è il numero del nostro centralino, appunto il nostro numero verde, oppure per i vostri sms 349 238 6666 potete scriverci al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, su Salvadanaio al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Ma Cristiano, gli ascoltatori hanno anche a disposizione la guida del Sole 24 Ore, il consueto parterre di esperti che oggi saranno impegnati appunto a raccogliere tutti i vari quesiti che i lettori possono inviare. Proprio così, abbiamo anche uno speciale su internet all'indirizzo www.ilsole24ore.com/dichiarazione-IMU. Collegandosi a questo indirizzo si può accedere poi a tutto un dossier che contiene la documentazione, le norme, il modello di dichiarazione, ma anche le ultime risoluzioni del Dipartimento delle Finanze, ma soprattutto si può mandare fino alle 18 di oggi un quesito agli esperti che poi risponderanno, e una selezione delle risposte sarà già pubblicata sul giornale di domani. Allora, prima di entrare nel merito di questo argomento, in tanti tra l'altro ci state chiedendo anche di ritornare sul redditometro alla luce delle novità che sono arrivate negli ultimi giorni, l'esenzione, la possibilità che per esempio i pensionati non vengano monitorati secondo appunto i principi del redditometro. Ci torneremo sicuramente nei prossimi giorni. Il tema è che, siccome c'è una novità al giorno, noi vorremmo cercare anche di darvi degli elementi certi, non stare sempre a commentare le micro novità che arrivano quotidianamente, per cui magari rimandiamo di nuovo a prossima settimana, chissà che non arrivi una versione definitiva di questi anche 35.000 controlli sui redditi del 2009 che verranno appunto fatti a partire da marzo. Per il resto è tempo di parlare di borsa. Una giornata sui listini europei senza infamia e senza lode. Sono positive Parigi, Francoforte e Londra, il guadagno medio è dello 0,2-0,3%, un po' più morigerata la prestazione di Milano. Sul FTSE MIB abbiamo un più 0,09%, Milano era partita in linea con le altre piazze europee, poi è andata in negativo, adesso ha recuperato qualcosa, ma a Naspa si muove leggermente al di sopra della parità. Ricordiamo che oggi l'Europa viaggerà senza stimolo simbolo di Wall Street perché è chiusa per il Martin Luther King Day, oltre che per l'Inauguration Day. Oggi c'è la cerimonia ufficiale di insediamento appunto di Barack Obama. Vediamo poi i temi di Milano. Gli operatori puntano stamattina su Fiat Industrial più 2,52%, su Parmalat più 1,89%, Banco Popolare e UbiBank in rialzo rispettivamente dell'1,46% e dell'1,21%. Sono peraltro proprio due delle banche i cui vertici nelle prossime ore saranno impegnati appunto in questi incontri con i rappresentanti, con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale oggi a Milano, proprio per questi incontri finali con i vertici dei principali istituti di credito. Cosa sta succedendo? Che il Fondo Monetario sta completando anche in Italia questa verifica sui crediti in sofferenza delle banche, soprattutto cerca di capire quali politiche le banche stanno mettendo in campo per la gestione di questi crediti in sofferenza. Andiamo a vedere invece i titoli che sono più penalizzati. Oggi Telecom perde il 2,42%, frena Mediaset dopo la galoppata degli ultimi giorni, meno 2,38%, Azimut meno 1,22%, Salvatore Ferragamo meno 1,13%. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi e facciamo il tagliando all'IMU. Una volta lasciato alle spalle il saldo di dicembre, il capitolo IMU 2012 si è chiuso per molte famiglie italiane. La nuova imposta sugli immobili resta comunque in cima alla lista dei temi caldi nella campagna elettorale in corso, sulla bocca di tutti tra chi vuole alleggerirla, modificarla o abolirla del tutto. La preoccupazione resta anche per chi, entro il 4 febbraio prossimo, è chiamato a presentare la dichiarazione IMU, un adempimento che non riguarda tutti i possessori di immobili, ma, secondo la regola più generale, solo quei casi in cui il comune non ha a disposizione elementi necessari a conoscere la situazione del contribuente. Devono presentare la denuncia, ad esempio, i coniugi che risiedono in case diverse nello stesso comune e i possessori di capannoni e negozi per i quali i sindaci abbiano previsto sconti o agevolazioni particolari. La scadenza del 4 febbraio sarà anche una buona occasione per individuare eventuali errori commessi nel calcolo dell'imposta versata e correggere, ad esempio, le imprecisioni nella divisione del tributo tra Stato e Comune o nella compilazione dei moduli di pagamento. Anche chi ha pagato in ritardo o non ha pagato per niente può sanare la sua posizione con la procedura del ravvedimento operoso, segnalando in modo spontaneo un'irregolarità. Prima dell'avvio di una procedura di accertamento, il contribuente potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. Vi state già prenotando in moltissimi, appunto in molti hanno capito che effettivamente non è una pratica archiviata a metà dicembre quando abbiamo versato il saldo. Per la verità ci sono ancora tante situazioni aperte. In primo luogo, Cristiano, ribadiamo un po' quali sono quelle posizioni che sono oggetto di questa dichiarazione che va fatta entro il 4 febbraio. Peraltro, dichiarazione che va fatta con una specifica modulistica che è già stata predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma che per la verità ogni comune può avere adottato in via personalizzata, diciamo, no? Non è detto che la modulistica che il comune offre al contribuente per fare la dichiarazione IMU sia esattamente quella del Ministero, quindi bisogna controllare prima di farla. Eh sì, proprio così. Noi abbiamo pubblicato sul Sole 24 Ore di oggi un articolo in cui sostanzialmente riprendiamo una stima che ha fatto il CAF ACLI, che ha mappato tutte le dichiarazioni, tutte le delibere dei comuni in tema di dichiarazione IMU. Che lavoro divertente, peraltro. Che lavoro divertente, ma l'hanno dovuto fare per i loro uffici sul territorio. E cosa si vede? Si vede che sostanzialmente in circa 2.000 comuni su un totale di 8.000, quindi praticamente uno su quattro, viene richiesta una dichiarazione con un modello, una comunicazione o una autocertificazione diversa da quella nazionale. Quindi innanzitutto bisogna verificare se si deve presentare o no la dichiarazione, ma poi dopo aver fatto questa verifica bisogna controllare bene nella delibera o nel regolamento IMU dettato dal comune, e facendo attenzione di prendere l'ultima delibera, perché a volte ce ne sono alcune che magari sono di settembre ma poi ne è arrivata una il 29 ottobre, ha un po' cambiato le cose, quindi vedere bene nell'ultima delibera disponibile o nell'ultimo regolamento se ci sono delle modalità particolari per effettuare appunto la dichiarazione. In che cosa possono differenziarsi le due documentazioni, quella del Ministero dell'Economia e quella del proprio comune? Ma allora, che tipo di informazioni aggiuntive in più può chiedere, diciamo, un'amministrazione comunale? I casi più frequenti in cui il comune chiede una comunicazione diversa sono quelli, ad esempio, delle case date in uso gratuito ai parenti, o dei contratti d'affitto a canone concordato, o ancora delle agevolazioni date alle imprese. Allora, in questi casi il comune chiede quasi sempre un'autocertificazione, a volte una comunicazione in carta libera, e in aggiunta a questa vuole tante volte la copia del contratto. Quindi, se è per esempio un comodato, cioè il prestito gratuito della casa, è vero che per la sua validità basta un accordo verbale, perché il comodato non richiede la forma scritta, però il comune tante volte vuole un atto con data certa, quindi magari un comodato sottoscritto davanti all'ufficiale del comune, o in alternativa un contratto registrato all'Agenzia delle Entrate. Quindi ci sono delle specificità che cambiano da città a città. E poi c'è un'altra cosa importante, è che a volte il comune, nel dettare delle modalità particolari di dichiarazione, detta anche una data diversa dal 4 febbraio, e questo è un elemento... Quindi può derogare in termini migliorativi o peggiorativi. Esatto. Fatela prima. Ce ne sono alcuni che vanno per esempio fino al 30 giugno 2013, quindi siamo sereni. Ce ne sono altri che avevano dato il 31 dicembre 2012 e quindi siamo tagliati fuori. Infatti. Perciò bisogna fare attenzione. Quindi, esatto, allora diciamo che bisogna accantonare quanto dice il Ministero dell'Economia e rivolgersi direttamente al comune per fare la dichiarazione, così siamo tranquilli, no? Dico bene. Diciamo che va fatta questa verifica, questo è inevitabile. Poi il modello ministeriale è più comodo anche perché, per esempio, è un file in PDF che può essere compilato direttamente dal computer, quindi lo si stampa ed esce già tutto in ordine e a posto. Ci sono anche comuni, per esempio Roma, che hanno predisposto una modalità di compilazione online, quindi a Roma la dichiarazione la si compila direttamente online sul sito del comune, però sono casi abbastanza rari. Soprattutto i piccoli comuni sono rimasti all'atto cartaceo. Allora, Marchetti a Jeffis, se il CAF ACLI ha fatto questo simpatico lavoro, ha condotto realizzato questa mappatura tra le delibere dei comuni per capire effettivamente in che modalità i contribuenti sulle territorie proprietari devono fare appunto questa dichiarazione, voi avete fatto un altro lavoro un po' meno complicato, diciamo, avete mappato i vostri iscritti per capire appunto qual è la loro percezione degli errori più frequenti che sono stati fatti nei mesi passati quando ci si approcciava appunto al pagamento e magari entro giugno dell'acconto IMU e entro dicembre al saldo IMU. Allora, come sono messi i contribuenti che avete mappato attraverso i vostri geometri fiscalisti, Marchetti? Ma sicuramente abbiamo fatto questa verifica all'interno dei nostri associati, dei nostri centri di raccolta, per cercare di capire quali erano gli errori più frequenti commessi in ambito di applicazione IMU. Ovviamente la casistica principale era rappresentata dagli omessi o insufficienti versamenti, probabilmente dettati da carenze di liquidità, però vi sono anche tutta un'altra serie di casistiche di errori legate proprio alla difficoltà di interpretazione delle norme, soprattutto in quei casi in cui il conteggio è stato fatto dal contribuente direttamente senza l'ausilio di consulenti o, come nel nostro caso, come noi consigliamo, di centri di assistenza fiscale come il nostro. In questo caso l'utilizzo di software magari non aggiornati, oppure proprio la non corretta individuazione della delibera comunale ha portato a errori materiali di calcolo, quindi i versamenti che il contribuente pensa siano stati effettuati correttamente invece non lo sono, proprio perché le basi di calcolo non erano corrette. Ecco, queste, diciamo così, sono le casistiche principali. Altro problema che abbiamo riscontrato abbastanza comunemente è il fatto della corretta individuazione delle pertinenze, laddove la norma prevede che se ne possono individuare fino a un massimo di 3. Abbiamo verificato che non sempre il contribuente ha correttamente interpretato la norma. E nonostante anche, tra l'altro ci aggiungo, Marchetti, le tantissime trasmissioni che abbiamo fatto, perché credo che su questo argomento per il 2012 abbiamo stabilito il record assoluto, vedo che tra gli errori che avete riscontrato c'è anche quello di chi ha effettuato l'unico versamento a giugno, non preoccupandosi appunto di verificare se il comune poi avesse deliberato un'aliquota diversa rispetto alla standard dello 0,4 4 per 1000 di giugno, Cristiano, dico bene, mi ricordo 4%, sì, esatto, vabbè, sì. E in ogni caso, appunto, c'è addirittura chi ha per togliersi il problema versato tutto a giugno e magari si è ritrovata a dicembre a dover fare sicuramente un'aggiunta o comunque lo scopre adesso, no? E adesso chiaramente deve correre ai ripari con un ravvedimento operoso, immagino. Certo, sì, nel senso che quelle sono le casistiche soprattutto di quei contribuenti che hanno voluto fare un po' fai da te a giugno soprattutto, salvo poi verificare magari nel momento in cui hanno fatto la dichiarazione dei redditi e quindi hanno verificato tutti i fabbricati, i terreni di loro proprietà, la non correttezza del versamento. E questo, ecco perché ci ha indotto anche a dire che è il caso di fare questo tagliando, un'operazione nella quale magari possiamo impegnarci un po' tutto. Facciamo un po' di terrorismo psicologico anche sull'IMU, no? Quindi andiamo, dato perché sul redditometro non ce n'è abbastanza, adesso andiamo tutti a ripescare anche tutta la vecchia modulistica per verificare se abbiamo fatto un corretto versamento tra saldo, no, tra acconto di giugno e saldo di dicembre. Tra l'altro c'è anche chi ha fatto il pagamento in 3 rate, c'è anche come dire, il versamento intermedio di settembre da ricordare. Allora abbiamo degli ascoltatori pronti ad intervenire, non so se farne sentire qualcuno o magari andare direttamente in pausa, ma sì, proviamo a mettere in campo già una domanda di qualche ascoltatore così abbiamo il tempo anche di riflettere, non io certamente ma i miei ospiti sulla risposta. Cominciamo con Sonia da Lecco che saluta e ringrazio. Sonia, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo chiedervi questo: il mio secondo figlio è nato il 20 di dicembre, quindi dopo la scadenza del termine per il saldo IMU. Sì. Volevo sapere chi ho diritto a questa declarazione anche per il secondo figlio che rende rimborso. E come nel precedente governo abbiamo abrogato l'ICI nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, nel prossimo governo abrogheremo subito nel primo Consiglio dei Ministri l'IMU. Io non credo affatto una patrimoniale. Noi abbiamo già una patrimoniale sugli immobili. Si chiama IMU. Io intendo come primo approccio a questa patrimoniale sugli immobili che ci sia una maggiore progressività e cioè si alleggeriscano le condizioni più deboli. L'IMU va modificata, va ristrutturata, il suo gettito va destinato maggiormente ai comuni, occorre rivedere l'intera struttura fiscale e farlo su un arco di un po' di anni. L'IMU, cioè noi stiamo adesso facendo una proposta che sarà poi votata sul programma, sul portale, di togliere la tassa sulla prima casa. La casa diventa impignorabile, come un rene. La casa è un bene primario, magari si tassa di più la seconda, la terza. Allora, le voci le abbiamo riconosciute tutte, non è il caso di appunto segnalare la progressione anche degli interventi che abbiamo proposto. Abbiamo sentito quello che sono le ricette dei principali candidati in questa tornata elettorale, appunto le loro idee, le loro proposte sull'IMU per qualcuno è un cavallo di battaglia da tempo, per altri invece, come dire, tirati un po' per la giacchetta, hanno dovuto anche esprimere la loro idea su questa imposta anche negli ultimi incontri pubblici che sono stati fatti. Detto questo, tanto per capirci, Cristiano Dell'Oste, di che cosa stiamo parlando? Perché il tesoretto non è indifferente. Se l'imposta venisse cancellata, lo Stato, ma soprattutto anche i comuni, dovrebbero rinunciare effettivamente ad un bel po' di risorse finanziarie, per cui bisogna ragionare molto bene sul destino della vecchia ICI, va, così almeno ce la ricordiamo un po' meglio. Eh sì, diciamo che la campagna elettorale è sempre un po' il regno delle promesse in cui tutto è possibile, poi dopo le elezioni si scopre regolarmente che non si può fare molto. La coperta è corta perché l'IMU di per sé vale, diciamo, a preventivo, diciamo, da relazione tecnica del decreto Salva Italia, 20,4 miliardi di euro, di cui tra i 3 e i 4 derivanti dall'abitazione principale, cioè dalla prima casa. Poi però con gli aumenti decisi dai comuni, adesso non abbiamo ancora i dati ufficiali, ma si stima che si sia nell'ordine dei 23-24 miliardi di gettito effettivo effettivamente incassato. Non dimentichiamoci che il 1 di luglio del 2013 è già in calendario l'aumento dell'IVA, che vale grosso modo, stiamo dando veramente delle stime di massima, ma è per capirci, tanto quanto l'IMU sull'abitazione principale. Allora forse sarebbe più serio chiedersi se sia meglio non pagare l'IMU sull'abitazione principale oppure non avere l'aumento dell'IVA, tanto per capire che non tutto si può fare. Infatti. Invece un po' in questa campagna elettorale si sta passando dalla promessa di cancellare tutto, fatta con varie gradazioni, al terrorismo del redditometro senza molta concretezza, se dobbiamo dirlo anche in chiave un po' critica, però questo è un dato di fatto. Allora, andiamo adesso alle questioni aperte dei nostri ascoltatori. Marchetti, ritorno da lei per una domanda che ci arriva da un ascoltatore che ci scrive, Giuseppe, che molto frequentemente ci scrive, peraltro, quindi lo salutiamo con affetto. Avendo rogitato ad aprile 2011 e avendo già ottenuto la residenza nel marzo 2012, non capisco perché c'è questo anno di differenza, beh sì, certo, quindi l'anno successivo, se ha rogitato ad aprile è chiaro che la residenza l'ha ottenuta un po' dopo, ci chiede l'ascoltatore appunto se deve presentare la dichiarazione IMU. Mi sembra che nel caso di compravendite di immobili che transitano appunto su sistema informatico, la dichiarazione IMU non vada fatta. Poi sì, Cristiano mi ricorda che dobbiamo anche rispondere all'ascoltatrice precedente. Marchetti. Sì, la risposta è corretta, nel senso che essendo stata acquisita la residenza nel 2012 è un dato che sicuramente il comune ha e quindi in questo caso non va presentata la dichiarazione. Se mi permette, però io volevo fare solo un'altra osservazione, una piccolissima considerazione al discorso che concordo pienamente a quanto diceva Cristiano Dell'Osta rispetto alla questione più generale politica. Manca un dato di fondo che secondo noi, come associazione dei metri fiscalisti sosteniamo, nel senso che non si può parlare di IMU senza abbinare la riforma del catasto, che finché il catasto è ancora ancorato alle vecchie regole del numero dei vani e non si passa alla metro quadro, qualsiasi discorso sull'IMU secondo noi è parziale. Ecco, questo è l'altro elemento che manca. Se non mi ricordo male, Marchetti, anche l'altra volta che era intervenuta la nostra trasmissione aveva sollevato la stessa questione. Certo, non è stato fatto nulla e di conseguenza lei dice ci riproviamo a risollecitare la questione. Se la riforma del catasto rischiamo sempre di fare una riforma incompiuta. Allora, Cristiano, rispondiamo all'ascoltatrice di prima. Ha avuto un bebè a dicembre, il 20 dicembre, chiede se può essere ancora in tempo a chiedere la detrazione appunto per questo figlio. Ricordiamo che praticamente esiste una detrazione universale di 200 euro per tutti i proprietari e poi 50 euro a figlio di età inferiore a 26 anni. Perfetto, è così. Il dubbio dell'ascoltatrice è sostanzialmente se può contare un mese di detrazione di 50 euro, quindi 4 euro, perché la detrazione va sempre rapportata al periodo, in relazione a dicembre 2012. La risposta è no, perché ci sia un mese bisogna che il requisito, la residenza, in questo caso la nascita del figlio, ci sia per almeno 15 giorni, quindi il bambino è nato il 20 di dicembre, quindi i giorni sono soltanto 12 sostanzialmente. Quindi la recupera, prende la detrazione nuova l'anno prossimo. Esatto, a partire dal 2013 avrai 50 euro in più, in questo caso 50 euro tutti interi perché si parte da gennaio. Diciamo anche due cose che ci dà l'occasione di precisare questa domanda, cioè che comunque non dovrà fare la dichiarazione perché la nascita dei figli è uno di quei dati che risulta all'anagrafe, quindi secondo il principio generale è un dato conoscibile dal comune, quindi non va dichiarato. E poi l'altra cosa che possiamo dire è che lei non ha diritto al rimborso, ma se avesse avuto diritto al rimborso l'avrebbe dovuto chiedere al comune, perché questo è uno dei chiarimenti che ha dato il Ministero delle Finanze poco prima di Natale, poco prima anche della scadenza del saldo, e quindi i rimborsi, anche quelli relativi alla quota statale, si chiedono sempre al comune. Tra l'altro poi il rimborso come arriva? Con un abbattimento eventualmente dell'imposta da versare in saldo il prossimo giugno, Cristiano, oppure è una questione che vi già a sé, arriva un assegno prima o poi dal comune che rimborsa questo eventuale allora, cifra? Il rimborso, se io chiedo il rimborso mi arriverà proprio il denaro. Detto questo bisogna fare una distinzione, perché per quanto riguarda la quota statale non ci sono ancora le istruzioni, cioè finora è stato detto che sarà il comune a doverla rimborsare Però siccome sono soldi dello Stato che ha incassato lo Stato e che il Comune non ha visto, bisogna che lo Stato dia indicazioni al Comune su come farseli poi restituire, e c'è da giurarci, visti i chiari di luna che ci sono per le finanze locali, che finché non arrivano le istruzioni i comuni di rimborsi non ne danno neanche un centesimo. Esatto. Allora andiamo ad altre questioni aperte dai nostri ascoltatori, così ci aiuta Gianni Marchetti dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti a rispondere. Andiamo a Massimo dalla provincia di Viterbo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Il quesito è che io ho un appartamento a Roma che è suddiviso in proprietà tra me e mia moglie. Sì. Mia moglie ha spostato la residenza a Bolsena, quindi io ho denunciato l'IMU come prima casa a Roma per me e come seconda casa per mia moglie, su suggerimento tra l'altro del commercialista. Volevo sapere se è corretto. Si è fatto bene, come dire, un altro parere non fa mai male. Marchetti, che ne pensa? Si è comportato correttamente? Il suggerimento è corretto perché può essere considerata abitazione principale soltanto per i soggetti che hanno la residenza nell'immobile e vi hanno anche il requisito di domicilio, quindi corretta la soluzione prospettata dal commercialista. Siamo al punto che non ci fidiamo neanche più del professionista che ci segue. Marchetti, abbiamo bisogno di 200 pareri. D'altronde anche loro, poveretti, sono subissati ogni giorno di novità, e prima che capiscono anche l'applicazione pratica delle nuove normative anche loro fanno fatica, giustamente. Andiamo a Rino da Milano. Rino, buongiorno. No. Senta, il mio è un errore molto semplice. Nell'F24 relativo alla prima casa non ho indicato le 100 euro di detrazione. Cosa devo fare? Può recuperarle, Marchetti? Sì, nel senso che, allora, se non ho capito male la domanda, il versamento complessivo, esatto, sia in acconto che a saldo, è stato superiore al dovuto perché non è stata conteggiata la detrazione. In questo caso può fare la domanda di rimborso al comune. Cristiano, che dici? Che ci saranno tra sì, no, l'unico dubbio che ho è che forse l'ascoltatore non li ha soltanto segnati, non li ha soltanto scritti nel modello, ma ha calcolato l'imposta corretta. Rino, che cosa ha fatto? Non li ha indicati e quindi ha versato 100 euro in più? Oppure ha fatto... Non li ho indicati e ha versato il giusto. Ah, ecco. Ah, quindi allora è soltanto un errore formale, cioè praticamente ha calcolato in modo corretto l'imposta ma ha dimenticato di scrivere 100 euro nella casellina detrazione. Non dovrebbe essere, come dire, non dovrebbe subire nessuna contestazione, Rino, quindi Marchetti, che ne dice? Anche questo no, è un altro problema. No, è un errore formale che non incide assolutamente, quindi... Benissimo. In questo caso il comune potrà verificare la correttezza dell'importo versato, ha tutti gli elementi per poterlo fare. Tra l'altro anche nelle altre puntate che abbiamo fatto su questo argomento abbiamo notato che la rosa dei possibili errori formali era piuttosto ampia, però come dire non dovevano destare eccessive preoccupazioni da parte dei contribuenti se poi appunto l'imposta versata era calcolata correttamente, Cristiano. Esatto, diciamo che ci sono due aspetti formali che non bisogna trascurare perché incidono, diciamo, sull'importo pagato e sulla destinazione del pagamento, che sono: primo, l'indicazione del codice tributo, questo deve essere giusto nel modello F24, altrimenti potrei dare allo Stato soldi del comune o viceversa. E secondo elemento, il codice catastale del comune, perché se sbaglio il codice del comune vado praticamente a pagare i soldi a un'altra città, che quindi si vede un gettito che non le spetta. Questi sono due elementi che è bene controllare. Sugli altri aspetti, nel momento in cui ho pagato l'imposta nella misura corretta, posso stare ragionevolmente tranquillo. Una marea di telefonate, davvero, altro che archiviata la pratica dell'IMU edizione 2012, è tutt'altro che archiviata, è aperta e ancora molti ascoltatori appunto si stanno facendo molte domande. A parte la dichiarazione da fare entro il 4 febbraio, se ci sono determinate situazioni appunto da segnalare al proprio comune, ma ci sono anche situazioni aperte relative ai versamenti fatti lo scorso anno, chi non ha potuto versare per problemi di liquidità, chi ha fatto dei versamenti errati, chi ha mal compilato l'F24 e insomma allora questo tagliando ci sembra effettivamente molto utile da fare. È il tema della guida del Sole 24 Ore in edicola oggi che, come al solito, oltre a rispondere alle tante questioni aperte, prevede il forum online, il consueto filo diretto con i lettori a cui potete scrivere naturalmente e tutti gli esperti messi a disposizione dal quotidiano domani cominceranno a rispondere a questi quesiti appunto sulle sole 24 ore. Ci sono anche gli esperti di AGEFIS, l'associazione geometri fiscalisti, che questa mattina sono con noi a Salvadanaio. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Parlavamo di quelle famiglie che hanno avuto anche difficoltà economiche l'anno scorso e non hanno potuto adempiere correttamente a questo versamento, e quindi in molti chiedono: allora che faccio adesso che magari sono entrato in possesso di un po' di liquidità e voglio sistemare adesso questa situazione, cosa faccio? Roberto da Bologna forse è uno di loro. Roberto, buongiorno. Ah, buongiorno, volevo chiedere proprio questo. Ecco, se io ipotizziamo in questo mese, in questo anno del 2013, non pago l'IMU e quindi né a giugno né a dicembre, nel 2014 la mia sanzione quale sarebbe? Andiamo a sentire allora quali sono le percentuali delle sanzioni, come funziona il ravvedimento. Marchetti, torno da lei. Il ravvedimento è una norma... Più che il geometra le faccio fare il fiscalista stamattina, sì. Quindi propendiamo più geometri, da una parte che dall'altra. Ci geometri dica. Fiscalisti, quindi la domanda è assolutamente pertinente. Mm-hmm. Per quanto riguarda gli omessi versamenti, le sanzioni sono modulate e rapportate in funzione del ritardo con cui si va a sanare l'omissione. Quindi se lui paga il 3 gennaio del 2014 un conto... Dell'ascoltatore la sanzione sarà del 3,75%, con l'avvertenza però che il ravvedimento operoso può essere utilizzato fino, nel caso dell'IMU, fino a un anno dall'omissione. Quindi se ad esempio l'acconto scadrà il 16 giugno 2013, non so se sabato o domenica, ma facciamo finta che sia durante la settimana, avrà tempo fino al 16 giugno del 2014 per utilizzare il ravvedimento operoso, perché oltre quella data non potrà più ravvedere l'avversamento in acconto. Quindi, e cosa succede in quel caso? Il fisco chiama, interpella? In quel caso non sarà più possibile utilizzare l'avvedimento operoso, occorrerà attendere l'accertamento da parte del comune e pagare le sanzioni. Anche in quel caso si potranno pagare delle sanzioni ridotte in caso di adesione, ma saranno leggermente superiori a quelle utilizzabili con l'avvedimento operoso. Benissimo, allora qualcos'altro da aggiungere sul ravvedimento, Cristiano? Tra l'altro l'acconto va pagato, se uno dice non pago l'acconto ma faccio tutto in saldo a dicembre, questa opzione non è contemplata, se non mi ricordo male. Non è contemplata, diciamo che sulla parte che non ho pagato a giugno sono comunque in ritardo di 6 mesi. Eccolo là, e quindi su questi è teoricamente anche contemplata volendo, però sì, certo. Una sanzione diciamo da pagarci. Che sui 6 mesi bisogna però pagare sanzioni con l'istituto del ravvedimento e interessi legali rapportati al periodo del ritardo. Andiamo a Franco da Roma adesso. Franco, buongiorno. Buongiorno. Senta, io a giugno ho effettuato l'acconto regolarmente calcolato. Sì. Nel saldo di dicembre, pur avendo calcolato l'intero importo da versare al 10.6 per 1000, ho attribuito il 50% al comune e il 50% allo Stato, erroneamente. Perché questa è la sua prima casa, non è una seconda casa, Franco? È una seconda casa. Ah, allora perché dice erroneamente? Perché mi sembra, adesso sì, ce lo dice Cristiano, lo so io. Perché ho calcolato il 10.6 per 1000 anche per lo Stato, invece era solo per il comune. Allora, aspetti un attimo che adesso cerco di capire, però chiariamo dall'inizio la questione. Per chi deve fare il versamento dell'IMU sulla seconda casa, effettivamente sull'F24 doveva dare indicazione della quota da versare al comune e della quota da versare allo Stato. Però non è 50-50, Cristiano, perché questo mi pare che sia proprio il problema così di Franco. Credo che l'errore del nostro ascoltatore si rivelerà poi a conti fatti uno dei più frequenti e di cui molti non si sono ancora accorti. Perché? Cosa succede? Succede che a giugno la ripartizione del gettito tra Stato e Comune si faceva dividendo banalmente a metà l'importo. A dicembre invece la quota statale è una quota fissa, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che allo Stato va comunque sostanzialmente sempre lo 0,38% su base annua, cioè lo 0,19% al saldo. Al Comune va tutta la differenza. Chiaro che se in questo caso l'aliquota è dell'1,06%, come nel caso del nostro ascoltatore, dividere a metà significa pagare un po' di più allo Stato e un po' di meno al Comune. Quindi il conto complessivo è corretto, cambia la ripartizione. Questa è una delle ipotesi che vanno sanate. La circolare... Quindi cosa deve fare l'ascoltatore? Perché non è una, un mero errore formale. Esatto. Mm. La risoluzione 2DF emanata prima di Natale l'anno scorso ha chiarito che in questi casi il contribuente non deve versare al comune quello che non ha versato e farsi ridare dallo Stato quello che ha versato in più, perché comunque dal suo punto di vista... Se la vede il comune con lo Stato, mi stai dicendo? Esattamente. Ah. Deve però segnalare l'anomalia al comune in modo tale che poi provvede il comune alle regolazioni del caso. Quindi Franco, insomma, non dovrebbe essere oggetto di particolari accertamenti, però ecco, vada a dire alla Comune di Roma che ha fatto questo errore appunto nella compilazione dell'F24. C'è un ascoltatore fantastico, dice: ho 5 figli, detraggo 250 euro, se ne faccio un altro mi pagano anche, non credo che l'amministrazione fiscale sarebbe così generosa, però intanto se ve lo potete permettere fate i figli, perché questo nostro paese sta invecchiando sempre di più. A proposito di dichiarazioni da fare entro il 4 febbraio, ho rogitato il 28 dicembre, devo pagare l'IMU per il 2012, Nicola da Treviso. Forse la scampa, Cristiano, sempre per il principio che dicevamo prima, qualora avesse rogitato entro il 15 dicembre avrebbe dovuto pagare la cosiddetta pro quota. Esatto, diciamo che in questo caso l'IMU 2012 la paga tutto il venditore, perché pagherà il mese intero di dicembre e l'acquirente inizia a pagare da gennaio. Per cui per lei problema rinviato e nessuna dichiarazione, perché per i rogiti tradizionali il comune ha già tutte le informazioni che deve avere. Speriamo, insomma, che non vi vengano a rivendicare nulla. Un minuto di tempo, sentiamo se ce la facciamo Giuliana da Milano, ma telegrafica. Giuliana, buongiorno. Buongiorno. Un immobile di interesse storico che prima si pagava l'ICI, adesso si paga l'IMU. Siccome sono cambiate le regole, mi sembra devo fare la dichiarazione entro il 4 febbraio, vero? Sentiamo Comune che... di Milano. Grazie Giuliana. Marchetti, cosa deve fare questa ascoltatrice? È proprietaria di questo immobile che ha queste peculiarità, però se è già proprietaria... No, deve fare la dichiarazione IMU, perché è espressamente previsto che per gli immobili riconosciuti storici occorre fare la dichiarazione. Benissimo. Marchetti, siccome stiamo chiudendo, le chiedevo se avesse un'ultima raccomandazione da dare ai nostri contribuenti, un po' distratti nella compilazione degli F24 sull'IMU. Ma la raccomandazione è sicuramente quella di utilizzare questi giorni che mancano alla scadenza del termine per fare una verifica approfondita della correttezza di quanto fatto in sede di acconto e saldo. E ovviamente il consiglio è quello di rivolgersi a persone competenti, quindi infatti anche i geometri fiscalisti, andate sul sito della GEFIS perché sono veramente in tanti. Poi c'è la guida oggi del Sole 24 Ore. Grazie a Cristiano Dell'Oste, a Gianni Marchetti, a Marco Lombardo, Gianmarco Ferronato. Torniamo domani con Salvadanaio. Buona giornata a tutti.